chiesto questa vita e mi avete gettato nel lato più basso della salita. Finché il rullante batte la mia anima resta viva, ma se perdo troppo sangue sparo, stacca questa spina. Invoco Dio a mani concerte mentre spero invano, ma spreco fiato. Procedo adagio con la pioggia che mi sfregia, mi preparo a trattenere questa sofferenza. Sempre fiero, mai chiesto riparo. Il mio cuore un pezzo raro, l'ho strappato nascosto lontano dal vostro mondo, non l'ho messo a caso. Io spezzo le catene e non resto schiavo. Piango sangue per farti sorridere, pago un prezzo amaro. Io voglio amarti ma non dormo se ricordo sguardi. Vengo a prenderti, corro ma è troppo tardi. Prendi quello che ho in tasca, nel petto e la rabbia negli occhi. Tieni stretto, è tutto quello che posso darti. Questa fiamma non si spegne mai, mi guida oltre questo inferno. Arde nel mio petto, mi tiene su ogni giorno, porta luce dentro, nel cuore nel profondo. Questa fiamma non si spegne mai, mi guida oltre questo inferno. Oltre questo inferno, oltre questo inferno. Se tornassi indietro, non so cosa farei, gente, ma credo che non cambierei niente. Vivrei ogni sbaglio e sguardo di quel presente per tenere a mente che si vince solo se si perde. Anime diverse, cose preziose per le gemme, amore che ci ha lasciato un segno sulla pelle. Se entra nel cuore lo sai bene, permanente. Il karma dai, prende, vets, questa è la legge. L'hip hop mi protegge dall'oscurità, sorregge la mia anima, mi dà la forza di rialzarmi un'altra volta dalla fossa. Per rivedere il sole che illumina ogni cosa. Se sempre di corsa, persi in personali, trimentali, affari legali, penali, amori passati e lontani. Con lo stress che pressa in testa pensieri strani, tengo stretti i miei ideali e ciò che amo fra le mani. Questa fiamma non si spegne mai, mi guida oltre questo inferno. Arde nel mio petto, mi tiene su ogni giorno, porta luce dentro, il cuore nel profondo. Questa fiamma non si spegne mai, mi guida oltre questo inferno. Oltre questo inferno.